Ma la decisione del governo israeliano parla con molto chiarezza di sé, non si tratta di nessuna svolta, la verità, perché prima il governo israeliano era in minoranza, ha dovuto spellere due ministri per trovare una maggioranza risicata, e poi la decisione del governo israeliano dice praticamente sì al piano di Sharon, però condiziona l'applicazione di questo piano ha un altro voto che il governo israeliano dovrebbe prendere entro il marzo del 2005, e quindi praticamente non ha cambiato nulla questa decisione. E se dovesse avvenire anche un ritiro israeliano dalla striscia di Gaza, non significa una soluzione politica al conflitto, ma significa semplicemente il ritiro israeliano da un territorio palestinese occupato, ma che la continuazione continua, anzi viene intensificata in altri territori. Sarebbe una svolta se il governo israeliano decidesse di ritirarsi da tutti i territori palestinesi occupati dopo la guerra del 67, cioè la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Però il piano di Sharon, che prevede il ritiro da Gaza e lo smantellamento degli insediamenti nella striscia di Gaza, ed è anche il trasferimento di questi coloni in Cisgiordania, e quindi l'annessione della maggior parte della Cisgiordania. Purtroppo i mezzi di informazione danno una lettura sbagliata, confondendo l'opinione pubblica internazionale. E mentre questa è una iniziativa truffa da parte del governo israeliano, che non significa nulla.